Buonasera a tutti e a tutti. Questa è Gatto Selvaggio, lavoro, precarietà e conflitto, in onda su Radio Asilo. Di nuovo buonasera a tutti e a tutti. La repressione delle lotte sociali continua in tutta Italia e anche qui in Campania, a Napoli, dove per Edoardo Eddie Sorge, compagno napoletano, animatore del Movimento dei Disoccupati 7 novembre e dirigente del SICOBAS, pare si profili all'orizzonte l'accusa di associazione a delinquere, articolo 416 del Codice Penale. Un'accusa grave e gravissima. Eddie è costantemente sotto l'occhio della questura, che lo perseguita ormai da tempo con denunce, convocazioni e perquisizioni praticamente continue. Si tratta di tutti i provvedimenti sia formali che informali che vengono costantemente utilizzati per criminalizzare tutti quei compagni e tutte quelle compagne che sono protagonisti attivi del conflitto sociale. Questa di associazione a delinquere, però, qualora dovesse concretizzarsi, si configurerebbe come un folle e pericoloso attacco di un livello superiore alla militanza politica conflittuale, che potrebbe segnare un punto ancora più alto dell'escalation penale e repressiva della polizia. Non possiamo che esprimere solidarietà ad Eddie, che sarebbe vittima di un atto gravissimo, di una montatura atta a screditare le forme di conflitto. E non è molto diverso da quanto è accaduto circa un mese fa a Paolo Persichetti, il quale ha subito una perquisizione che ha portato al sequestro di tutto il suo archivio. Un attacco che in questo caso è un attacco anche alla ricerca storica indipendente, che mette in luce quanto ancora oggi sia difficile raccontare gli anni 70 e il conflitto in Italia. Persichetti infatti è autore, insieme a Marco Clementi e Elena Santalena, di uno dei migliori, probabilmente sicuramente più documentati, libri sulla storia delle Brigate Rosse, ed è proprio questo libro il motivo dell'apertura dell'indagine. Dunque oggi essere parte attiva nel conflitto sociale in Italia, sia esso dal punto di vista delle piazze, del movimento oppure anche della ricerca storica, o anche addirittura solo invitare su Facebook a guardare una fiction sui danni ambientali, come ha fatto tempo fa un operaio dell'Ilva di Taranto che per quel motivo è stato licenziato, sembra essere sufficiente per essere criminalizzati. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia. Anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera rossa. All'inizio di aprile di quest'anno veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso coesione per il Sud. Ne parlavamo qui qualche settimana fa. Erano richieste 2.800 unità di personale non dirigenziale per la pubblica amministrazione di 8 regioni del Sud, tra cui anche la Campania. E le risorse erano state stanziate dal governo precedente nell'ultima finanziaria e rientravano nell'ambito del PON Governance 2014-2020, che con i fondi europei della coesione, che destinava i fondi europei della coesione alle regioni meno sviluppate. C'erano 5 profili richiesti di funzionari di diversa tipologia ed era possibile presentare domanda anche per più profili. L'unico prerequisito per poter accedere a qualunque di queste categorie, che andavano dall'esperto in gestione all'analista informatico, era avere una laurea. E già qui qualunque tipo andava bene per iscriversi a qualunque delle 5 categorie. Basta ovviamente che si pagassero i 10 euro di ingresso per ogni iscrizione. Era già una cosa molto molto molto strana. E pertanto, anche per questi criteri molto, molto labili, alla chiusura del bando le candidature presentate erano state quasi 100.000 da parte di più di 80.000 persone. E ovviamente con posti disponibili che erano 2.800 significava che chi si iscriveva sapeva che per superare sarebbe dovuto rientrare nel 3,5% dei fortunati, quindi la percentuale, diciamo, le statistiche non giocavano a proprio favore. E questo bando era stato presentato in grande stile dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, con Brunetta che, dopo aver appresentato dei candidati, aveva annunciato che sarebbe stata il primo esempio di concorso che avrebbe messo in luce la novità rivoluzionaria di questo governo e di questa riforma della pubblica amministrazione da lui fatta. E infatti questo concorso era il primo a svolgersi con la formula cosiddetta fast track, cioè con la preselezione per titoli ed esperienze professionali. E infatti era già questo strano per il fatto che ci fosse solamente la laurea come titolo di ingresso, ma chi partecipava sapeva bene che solo con la laurea era molto difficile andare avanti perché i punteggi assegnati ovviamente favorivano, c'erano una discrepanza di punteggio tra la laurea e il master che costa un sacco di soldi, tutto a favore ovviamente del master e soprattutto cioè, veniva data grande peso nel calcolo dei punteggi alle esperienze professionali pregresse. Qui questa formula fast track avrebbe dovuto nella retorica del ministro portare a un percorso che in soli 100 giorni avrebbe portato dalla pubblicazione del bando all'assunzione. Assunzione che comunque è bene specificarlo, anche se purtroppo non servirebbe, nel senso che conosciamo come vanno le cose, era un'assunzione a tempo determinato. Ovviamente anche qui era tutto accompagnato dalla solita odiosa retorica del merito, perché questa riforma avrebbe premiato i nostri migliori talenti che avrebbero potuto vedere un datore di lavoro attrattivo nella pubblica amministrazione, che avrebbero fatto parte di un ambizioso programma di cambiamento del paese. Vabbè, vediamo un po' come più o meno hanno resistito alla prova dei fatti questi proclami, queste parole. 50 giorni dopo la pubblicazione del bando, c'erano gli elenchi degli ammessi, che avrebbero quindi dovuto sostenere la prova. La preselezione per titoli, come ci si aspettava, aveva mietuto tantissime vittime, riducendo gli iscritti dai 100.000 iniziali a 11.000, quindi il 90% circa era stata esclusa. Quindi i migliori talenti, però, quando sono stati chiamati a presentarsi alle prove, non si sono presentati. C'è stata una media di presenza inferiore al 65%, in alcune regioni anche addirittura inferiore al 50%, quindi la metà dei candidati non si è presentata. E questa cosa ha costretto il ministero a correre ai ripari. C'è stata una pubblicazione dopo qualche giorno dalle prove di un provvedimento di modifica del bando che, diciamo, adducendo come motivo il voler garantire i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e cito, quindi ovviamente per questioni di efficienza ed economicità, riapriva il concorso e faceva accedere tutti quelli che si erano iscritti, rendendo quindi già inutile il primo passaggio tanto sbandierato di selezione per titoli. Quindi, e ferme restando ovviamente le prove già svolte dai candidati che erano stati convocati in prima battuta. Questa volta poi per sicurezza il ministero si era premurato addirittura di inviare una mail di convocazione a tutti i candidati, cosa che è praticamente impossibile da vedere oggi, che ti venga chiesto se vuoi partecipare a un concorso pubblico. Però è arrivata questa mail in cui chiedevano anche informalmente, senza alcun vincolo, se si partecipasse o meno, temendo ovviamente una nuova diserzione di massa, perché ovviamente chi si aspetterebbe che dopo essere stato escluso da un concorso pubblico viene richiamato pregandosi di presentarsi per svolgerlo, soprattutto se cioè, al governo ci sono le migliori italiane del paese, forse non ci si aspetta delle così miserevoli e confuse uscite. Ma comunque c'è stata la prova e i risultati sono stati comunque l'ennesima pessima figura di questo governo perché i candidati idonei sono risultati essere solo 821, quindi meno di un terzo dei 2.800 posti disponibili. Perché? Questo perché? Oltre al fatto che si erano presentate poche persone rispetto agli iscritti, ma poi era stata fissata una soglia di punteggio minimo di idoneità che che ovviamente non teneva conto quindi dell'andamento medio della prova e non prevedeva scorrimenti di graduatoria. È lo stesso che era successo per il concorsone in Campania, in cui non si erano riusciti quindi a coprire tutti i posti disponibili. Quindi questi tutti i proclami urlati di grande riforma e di rilancio della pubblica amministrazione, il ministro Brunetta se li ha ricacciati in gola e ha trovato come unica soluzione quella di scaricare tutte le colpe sul precedente governo. Contrariamente quindi alla retorica degli ultimi mesi, il numero degli iscritti testimonia la necessità e la voglia diffusa di trovare un impiego, soprattutto da parte dei giovani, perché basta guardare i dati, il 30% dei candidati, quindi dei 90.000 che hanno fatto domanda, aveva meno di 30 anni. Quindi la retorica dei giovani che vogliono stare sul divano e che avrebbero comunque tutta se avessero la necessità di rimanere sul divano lo potrebbero fare, ma comunque si vede che la gente il lavoro lo cerca. E però i concorsi vengono ancora banditi col contagocce e i criteri selettivi, tra la supervalutazione dei costosi master a scapito degli altri titoli di studio e il peso che viene dato all'esperienza lavorativa pregressa, che quindi per un giovane sono delle mazzate, per un giovane neolaureato, ma per un giovane in generale che non ha la possibilità di accedere a un master da 10-20 mila euro, in più la questione delle soglie di punteggio ex ante rendono praticamente impossibile reclutare le unità di personale che richieste, che vuol dire già sono in sotto organico, già le richieste sono meno di quelle delle necessità che davvero ci sarebbero, non si riesce nemmeno a coprire questi posti. E che comunque, poi è bene ribadirlo, sono sempre assunzioni con contratti a tempo determinato. E quindi c'è poco da girarci intorno. Questa riforma della pubblica amministrazione, che è intrisa di classismo, alla prima prova dei fatti si è rivelata subito fallimentare sotto tutti i punti di vista. Capito Malteni, era un ferroviere, viveva a Manfredonia, giù nel tavoliere. Buona educazione, di spirito cristiano, è un locomotore sotto mano. Di buona famiglia, giovane sposato, negli occhi si leggeva, molto complessato. Faceva quel mestiere, forse per l'amore, di viaggiare sul locomotore. Seppure complessato, il cuore gli piangeva quando la sua gente andarsene vedeva. Perché la gente scappa, ancora non capiva, dall'alto della sua locomotiva. La gente che abbandona spesso il suo paesello, lasciando la sua falce in cambio di un martello. E gente che ricorda nel suo cuore errante il misero guadagno del bracciante. Sera partì da Torre a Mare, doveva andare a Roma e dopo ritornare. si conclude qui la puntata di oggi di Gatto Selvaggio, lavoro, precarietà e conflitto. Grazie a tutte e a tutti per averci seguito e ci vediamo la settimana prossima sempre qui su Radio Asilo. Con passa terra, terra e l'amore, c'è sta una folla senza lavoro, gente che perde e non trova niente, stanno aspettando che passo vinto. Con passa terra, terra e ricchezza, chi ci comanda non dà una carezza, non sanno niente, la gentilezza, pensano i figli, hanno solo munnezza. Con passa terra, terra e giustizia, tutto potere, puttane e vizi, c'è stanno un mondo che fa dei vizi, prima si mangia e poi daranno giudizi. Coppa sta terra, terra illusione, stanno appicciando tutte passioni, senza conoscere la vera ragione, mettono a rischio su poco d'amore. Terre malizie, quando si chiede del suo spizio, come si odimbe, servuto a niente, restano sulle senza parenti. Coppa sta terra, terre famiglie, c'è sta una mamma con quattro figlie, sotto un ponte, mi sana via, stanno aspettando che passa via. Quando si picchia del resto spizio, come si odimbe, essere muta niente, restano sulle senza parente. Coppa sta terra, terra e famiglia, c'è sta una mamma con quattro figlie, sotto un ponte, mi sana via, stanno aspettando che passa via, che passa via. Povero mondo, povero mondo, che non trova verità. Povero mondo, povero mondo, povero mondo, che non trova libertà. Coppa sta terra, terra e famiglia, c'è sta una mamma con quattro figlie, sotto un ponte, mi sana via, stanno aspettando che passa via.